YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La terza ora del sabato del villaggio, che è la mia ora preferita, che è quella di RadioTube, perché questo sabato io sono circondata da uomini pazzeschi, due ospiti e un co-conduttore. Ciao. Grazie, Daniele. Grazie Marta, pazzeschi. C'è Adriano Attus qua. Lo presentiamo già. Subito. Ci farà compagnia in questa ora. Adriano, facciamo parlare, Attus. Lo teniamo lì, come nascosto. Spieghiamo chi è Adriano, o lo diciamo dopo chi è Adriano. Creative Director del Sole 24 Ore, lo sanno tutti. È il direttore creativo del Sole 24 Ore, ha fatto una cosa molto bella, molto preziosa, proprio di attualità oggi, che stiamo seguendo la visita del Papa, la stiamo seguendo in tutti i giornali radio, ma noi vi racconteremo un retroscena molto comunque, molto ciao, bello. Puoi dirlo, Adriano, Ciao Marta, ciao Daniele, grazie, sono emozionato, abbiate pazienza. Che è bello, tutta una Adriano grande Attus. Famiglia del Sole oggi. Sì, ma sì, io sì, volevo sì. chiedere una cosa, intanto ho notato per la prima volta che la voce che dice di Marta Cagnola e Daniele Bellasi si chiama Christian Jansante ed è bravissimo. Dice il mio cognome in un modo che io stesso mi eccito del mio cognome. È bravissimo Christian. Poi, bene, dai, allora, parliamo un po' della settimana televisiva, non so nulla. Non sai nulla, la Perego, vabbè. Non so nulla. Allora, parleremo anche della Perego. Beh, c'è un grande ritorno. Festeggiamo il ritorno di Edicola Fiore. Questa settimana ha avuto degli ospiti particolarmente interessanti. Volevamo che lei sapesse che la zona è in buone mani. Però vedo un po' di tendoni. Sì, ma questo è tutto a posto, non si preoccupi. C'è il bar. Buongiorno. Buongiorno, è l'occhero. Buongiorno, signor. Ah, buongiorno, quello truccato. Quello truccato. Ecco, questa invece è tutta la zona con il nostro gruppo. Bella. Sì. Beh, tutto bene. Ma con i permessi siamo messi come? Hai capito chi era? Era la Raggi. Era la Raggi, come ma è stata anche molto brava. Sì, come spalla. Complimenti, siamo a posto con i permessi. Sai, grandi polemiche in rete, perché è andata a sciare. È andata a sciare, vabbè, poverina, grandi ogni polemiche. Tanto anche lei si deve riposare. Ma perché era una settimana un po' particolare per Roma, so. Gli scioperi, i traffici, i trattati europei, tutti i capi di Stato. Fosse Ardeatine. Buon compleanno Europa, fosse Ardeatine, non ne parliamo. Senti, ma invece prima di entrare in studio, tu mi hai detto che questa settimana è nato il nuovo Steve Jobs italiano. Allora, non l'ho scritto io, anche perché tutti sanno, io lo dico sempre a Radio YouTube, che sono una sua grandissima fan e quindi dicono, ecco, lei parla sempre bene di Crozza e di Flavio Insinna. Sì. Flavio Insinna questa settimana è andato a Carta Bianca dalla Berlinguer, ha fatto un discorso pazzesco. Ma è anche pazzesco. Lui della minoranza Dem, non credo. Ma no, lui adesso lui è talmente condiviso in tutti i siti sì. di simpatizzanti di sinistra, movimenti di sinistra, politici di sinistra, che dicono è nato un leader. Un leader politico addirittura. Sì, sì, ma perché addirittura ha detto Tommaso Labate ha fatto un pezzo sul Corriere. Grande in cui fratello interista, salutiamo. Sì, lo sapevo, in cui l'ha celebrato in maniera straordinaria, appunto, ma nuovo Steve Jobs. Ma perché l'ha celebrato? Te ne mostro alla radio un pezzettino. A me spaventa la doppia velocità della nostra morale. Io non voglio vivere in questo paese, l'avete detto anche voi, voglio vivere in un paese gentile che aspetta chi arriva tardi. Allora, e guardi, io lo so che lei si imbarazza quando cito suo padre, ma suo padre diceva che ci si salva e si va avanti solo tutti insieme. Da soli sarà una disgrazia. Allora, mi piacerebbe che questo paese trovasse o ritrovasse la necessità di aiutarsi, così come sente il bisogno di respirare e di bere. Un trascinatore di folle. Ma, guarda Marta, ma Adriano. Io lo adoro. Ma lo sapete che io per Flavio Insinna un debole, no, ma, da sempre confessato. Anche a lui confessato. Sei pronta a mettere la X nella gabina elettorale? Qualsiasi cosa sul per lui. Partito di Flavio Insinna. Sai che lui a maggio che dove fa? Sarà? Cosa farà? Escita. No. Sì. No. Conduce Flavio anche quest'anno. Insinna conduce Escita. L'Eurovision anche. Me ne vado. Sì, sì, sì. Basta. Ma puoi anche venire a Kiev con noi. Ma Insinna ci sarà. No. Vabbè, basta che ci sia Insinna. Senti, ma avrò due parole sulla Perego. Dai, diciamo, hanno chiuso la trasmissione. Sulla Perego, anche perché noi che parliamo di rete, effettivamente è venuto fuori tutto sì, dalla rete. Tutto dalla rete, hanno chiuso la trasmissione per questa Parliamone cosa. Sabato. E per che posizione vogliamo prendere? Allora, a me questo vademecum sulle donne dell'est non è piaciuto. Però io sono d'accordo con una cosa che mi ha detto Paolo Bonolis, perché l'altro ieri sono andata a sentire un po' quello che Paolo Bonolis di nuovo farà in Mediaset. Ha prolungato il suo contratto di 2 anni, ha firmato per 2 anni a Mediaset. Tante cose interessanti, ha detto anche tante cose interessanti su Sanremo, ma in particolare volevo sapere anche cosa pensava di questa chiusura di Parliamone sabato. Effettivamente Paolo Bonolis è in una situazione un po' particolare, perché lui ha come agente Lucio Presta, che è anche il marito di Paola Perego, quindi insomma ovviamente la sua posizione è un po' particolare, però ha detto una cosa secondo me molto molto lucida, te la faccio sentire. Vai. Questo ho detto era ironico, era leggerissimo, peraltro l'avevano già detto in Rai con Sposini e con l'Avenire, lo stesso tema l'avevano affrontato precedentemente, però non c'era ancora il terrore della forca caudina della Rete. Cioè, è giusto che la Rete dica quello che vuole, ma non è giusto che chi deve difendere qualche cosa, già che l'ha detto la Rete, vuol dire che la Rete c'ha ragione. La Rete ragiona molto velocemente, e quando ragioni molto velocemente certe volte non rifletti su ciò che dici, vivi l'onda di marea. E questo è un po' un problema. Un'azienda importante deve sapere che quello che sta facendo e ciò in cui crede va difeso. È una dimostrazione di debolezza, non di forza, quella che è stata data. Cosa ne pensi? No, la cosa era stupida. Cioè, al di la là cosa delle, era stupida, me non è piaciuta. Poi, stupida. A differenza di quello che dice Paolo Bonolis, io non l'ho trovata neanche particolarmente ironica. Ma no, questa esatto. È la mia opinione. La cosa era stupida, però io la penso più o meno come Bonolis, ma come ha scritto su Twitter Pierluigi Battista del Corriere della Sera. Beh, oggi di che ci indigniamo? C'è esatto. Sto fatto, no? Che ogni giorno la Rete si sveglia la mattina e dice: mo, oggi chi facciamo dimettere, chi mettiamo nei guai, con un'indignazione collettiva che parte, in questo lo diceva giustamente Paolo Bonolis, c'è la marea della... Ma perché non facciamo che la mattina ci svegliamo e facciamo una marea o un'onda positiva? Non lo so, scegliamo una cosa e diciamo oggi invece che dimettere facciamo promuovere qualcosa. Qualcuno, un ragazzo. Bello, bello, non mi so, piace. Parliamo benissimo di una trasmissione. Se ci mettiamo d'accordo tutti funziona. Io voglio parlare benissimo di Adriano Attus. Che si sta scaldando. Allora facciamo una breve pausa e poi raccontiamo perché con noi c'è il creative director del Sole 24 Ore, Adriano Attus. Tra pochissimo? Eh sì, dopo il traffico. YouTube. Carissimo Papa Francesco, fra qualche settimana verrai nella nostra città a Milano. Ti stiamo aspettando veramente con molto desiderio di incontrarti. Ah, mi raccomando, non ti intristire per certe frasi che magari ti avranno riportato, che sono state dette da qualcuno nella nostra città, tipo pulizia di massa o stupidaggine di questo tipo. Guarda che noi a Milano gli stranieri li abbiamo sempre accolti, in particolare i tuoi connazionali, gli argentini, che peraltro hanno fatto benissimo nella nostra città. Milito, Cambiasso, il Tractor, il capitano Zanetti, non so se lo conosci. Quindi insomma, noi agli argentini vogliamo molto molto bene. E allora, Samuel Giacomo Boretti. Conosciuta anch'io, Daniele. Fratello interista. Dunque, questi erano i video di preparazione della visita nella nostra città e anche lì vicino un po' sì, a te, perché sì, anche sì, a Monza. Sì, sì, anche a Monza. Di Papa Francesco e la Curia di Milano per preparare questa visita ha chiesto a Giacomo Poretti di Aldo, Giovanni e Giacomo di fare una sorta di storytelling fatto attraverso dei video su YouTube, uno dei quali, questo era peraltro il primo, ma soprattutto... Divertente, carino, ma molto carino. Sì. I suddetti responsabili di questa visita così importanti hanno chiesto a una persona che noi conosciamo molto bene di fare una cosa molto particolare che adesso in breve ci facciamo raccontare e poi gli chiediamo poi un sacco di altre cose. E poi mostreremo anche alla radio. Mostreremo anche alla radio. Adriano Attus, dillo tu in inglese. Creative director del Sole 24 Ore, direttore creativo del Sole 24 Ore. Cosa fa il direttore creativo del Sole 24 Ore? Partiamo dal sole, oltre, dalla parte sì, seria. Sì, no, ma anche perché diciamo una definizione, così lo spieghiamo. Giusto, vai. Oltre a vestirsi meglio di tutti in questo palazzo di Via Monterosa, perché è veramente straordinario il nostro Attus. Sono grazie, un po' geloso. Grazie Marta, non che dire lavoro così, fai? Dani, sei troppo gentile. Il direttore creativo al Sole 24 Ore può sembrare un ossimoro, eppure è quello che cerco di fare tutti i giorni. Al di là di riunioni pirotecniche in cui spesso sono coinvolto, cerco di dare ordine insieme ai colleghi Francesco, Guido, Antonio e tutti i poligrafici del gruppo a quelli che sono i contenuti che ogni giorno arrivano dal mondo, dando loro una forma e cercando di renderla accattivante e far sì che i lettori possano godere appieno della grande qualità informativa. come dico io, Daniele, se voi scrivete delle cose brutte, loro le fanno sembrare belle disegnandole bene. Quando è possibile. No, guarda che lui su questo punto c'ha una versione. No, perché tu dici che giustamente noi non dovremmo lavorare separati, no? Assolutamente no. Siccome lei ha detto noi, voi scrivete, no, ma è giusta la sottolineatura. Sì, io sono un grande Marco. Sostenitore, come tu sai, Daniele, del noi, tutti insieme, chi scrive, chi disegna, chi parla alla radio, chi fa video, carta, digital, online, non c'è più distinzione, tutti insieme indistintamente cercando di fare delle cose utili e funzionali, non solo belle, per cercare di trasmettere tutta l'informazione. Allora, dicevi creatività. Hashtag sole nuovo. Sole nuovo, esatto, perfetto. Però ma soprattutto numeri. Con i numeri io da alcuni anni cerco di sviluppare un'attività artistica, si chiama Numerage. Googleatela. Google adesso Numerage. Twittiamo un po' di cose. www.numerage.com Numeri e collage, vale a dire cerco di recuperare numeri dai giornali di tutto il mondo, dai quotidiani di tutto il mondo, e rappresentarli in forme appetibili, cerco di renderle belle, per far capire a chi guarda queste opere come talvolta la bellezza non sia di grande aiuto nella comprensione di quello che si ha davanti. Googleatele. Allora, sei stata straordinaria, hai rivoluzionato la scaletta e quindi non possiamo parlare di no, quello. No, adesso torniamo alla ragione per cui oggi, in questa giornata così importante, parliamo con Adriano Attus, perché ha fatto una cosa molto bella. Allora, molto abbiamo sentito Giacomo Poretti che dava il benvenuto al Papa a Milano, e anche Adriano Attus ha dato il benvenuto al Papa a Milano con una cosa che è diventata, fatemelo dire almeno una volta in questa virale. Trasmissione virale. Persino sui pullman lo vedete, sui tram, lo vedete ovunque. Cosa hai fatto, Adriano? È stato fantastico. Avrete visto, venendo quest'oggi o in giro stamattina per Milano, la città invasa da immagini bianche, gialle e azzurre. Sono fierissimo di aver realizzato insieme all'amico e collega Luca Pitoni, direttore creativo di Donna Moderna e già collega del Sole 24 Ore, il logo e l'immagine per questo grandissimo evento che oggi sta caratterizzando la giornata milanese. Abbiamo creato un logo, quel logo che avrete visto appeso dappertutto, quelle due grandi mani vicino a quella sorta di sorriso che rappresenta un po' Papa Francesco, ed è stato uno dei lavori che probabilmente ha avuto ultimamente la maggiore visibilità tra tutte le cose fatte. Le sciarpe sono state stampate, le avrete viste per strada sicuramente, in 1 milione di copie, vale a dire, stendendole tutte per terra, giusto per rimanere sempre in sei temi. Un grande, stendendole tutte, la prima lezione di Vittorio Feltri quando mi ha assunto, bravo, perché devi far capire i numeri, vai, stendendole tutte per terra, arriviamo a riempire 35.000 stadi di San Siro. Incredibile, incredibile. E poi cosa ha fatto Adriano? Siccome è andato in vacanza in Patagonia, volevo arrivare lì, ma era lui, perché l'ho visto su un giornale. È finito con su Luisa, tutti che salutiamo. Altro che Sole 24 Ore, in incognito, perché erano coperti Adriano e sua moglie Luisa. Ciao Luisa. Si sono fotografati così, ma credo in maniera giocosa, senza scopo per i social. Per i social. In Patagonia con la sciarpa di Papa Francesco. Abbiamo ed è stata pubblicata da tutti i giornali. Sì, è stata una sorpresa incredibile. Abbiamo deciso di fare questa luna di miele, viaggio di nozze, partendo da Cap Horn, risalendo verso Iguazú e quindi Buenos Aires. Siamo andati praticamente nelle terre di Papa Francesco. Ci siamo portati un prototipo, questo è uno dei grandi privilegi di fare il grafico, perché sempre le cose in anteprima, prima di tutti, come diceva Jovanotti. Siamo andati al perito Moreno, abbiamo tirato fuori le nostre sciarpe davanti a questo ghiacciaio fantastico, abbiamo esposto la nostra sciarpa di Papa Francesco nelle terre è la fin del mundo, come disse 4 anni fa Bergoglio. Non avete idea di come la gente presente intorno a noi venisse incuriosita per cercare di chiederci informazioni o comunque farsi a loro volta fotografare. Ah, incredibile! L'abbiamo mandata a Don Davide Milani, responsabile della comunicazione della diocesi di Milano. Anche lui amico di RadioTube, è stato tante volte nostro ospite. E ha detto... E dopo qualche giorno mi sono ritrovato insieme a mia moglie Luisa su tutti i giornali e non solo, senza ovviamente saperlo, perché sapete che la comunicazione talvolta prende pieghe inaspettate. Perché voi eravate appunto in Argentina e siete diventati famosi per questa foto con la sciarpa. È finito? Che adesso... No, abbiamo ancora altri minuti. No, perché lui ieri, siccome essendo amici ho avuto il privilegio di sapere qualcosa in anteprima di quello che ci raccontava, lui ieri mi ha fatto vedere un quadernino della notte, no? Sei partito tipo alle 11 di sera, dove di disegnino in disegnino è nato il logo. Cioè le mani che... No, ma prima. No, perché per spiegare un po', le mani, le mani che sono, però mani sono delle che colombe sono anche, e sono anche, e il che duomo, anche il duomo. E il sorriso è anche un abbraccio. Esatto. E che però è anche il sole. Lì è stata l'esperienza del sole 24 ore, la vita del quotidiano che ha dato grande impulso a questa... Ce l'hai in mano, il libercino. Dai, magari adesso poi possiamo fare la foto. Eri entusiasta e non potevo non portarvelo, perché Marta non l'aveva visto e doveva vederlo anche lei. Le indicazioni erano abbastanza chiare e sintetiche come sempre. Vogliamo un logo semplice e chiaro. Dobbiamo portare speranza a tutti, far capire che siamo a Milano o comunque nelle terre ambrosiane. E la frase che dovremmo riportare, tratta dagli Atti degli Apostoli: ho un popolo numeroso in questa città. Compito non particolarmente semplice, far sentire... Beh, ma poi il committente non era tanto importante. Esatto. No, era un normale, comunque gente il cui titolare è abituato a fare cose epoche in 6 giorni. Capite quindi quanto tempo possano averci dato per realizzare un logo, praticamente. Beh, mutatis mutandis, ragazzi. Un pomeriggio e una notte, e soprattutto una mattina alle 5, dove svegliandomi, dopo aver parlato con Luca e con Davide alla sera, cercando di valutare tutte le ipotesi, le possibilità, è arrivato il colpo, mi piace dirlo, dai, di genio. Una volta me lo posso dire da solo, perché in quel caso lì unire le mani col Duomo, col sorriso, col Papa non è stato facile, ma posso garantire che la soddisfazione che ha incontrato questo logo è stata fantastica, e quindi è andata alla grandissima, direi. Io vedo veramente Adriano felicissimo questa cosa, siccome siamo molto amici, penso che si sia anche un po' capito dal nostro tono. Sono molto contenta, perché io penso che un grafico possa fare tante cose nella vita, tanti loghi, tante cose, però un'esperienza del genere è unica, impagabile. Davvero. Sì, un milione di sciarpe, un milione di persone, sì, ma poi, che si porteranno tutto il resto in giro, la gente che festeggia con una cosa che hai creato tu. È molto bello, meraviglioso, questo. Meraviglioso, per mandare un messaggio positivo. Invece, per tutti gli aggiornamenti, ovviamente tutti i giornali radio oggi, ma anche domattina, con tutti i racconti di questa giornata straordinaria. Adriano, resta, perché abbiamo un ospite super sì, top. Sì, è già arrivato, e sono proprio bravissimo, favoloso. Grazie Adriano Atos, Creative Director del Sole 24 ciao, Ore. Grazie a tutti. Grazie. Dopo la pausa, uno che commette qualche errore e lo trasforma in diario. Radio Tube. Allora, ve l'avevo promesso, sono ancora accanto, ve l'avevamo promesso, sono ancora accanto a Daniele Bellasio, ma abbiamo con noi anche un ospite straordinario. Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata. Sono andato sempre dritto come un treno. Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero. Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio, e non ho mai detto resta se potevo dire addio. Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta, ma non ne ho tenuto conto, sempre avuto troppa fretta. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Allora, Daniele, io non so a cosa ti riporta questa canzone. A me riporta intanto a un Sanremo bellissimo che mi sono goduta veramente tanto. Poi mi riporta... Non mi hai portato però, vabbè. Anche per quello me lo sono goduto tanto. Immagina. Poi mi riporta veramente al momento in cui sono entrata nel Teatro Ariston e ho sentito le prove e ho sentito questo pezzo dal vivo e ho detto... Accidenti. Cioè lui è davvero bravo e... Nonostante sia così giovane, nonostante questo testo di questo pezzo mi sembrasse persino troppo maturo per lui, ho capito invece che ha tanto da dire sto ragazzo, mi piace un sacco. Non c'è dubbio, tu sai che tu insieme a mio figlio Rocco siete i miei critici musicali di, sì, di riferimento, sì, no? Visto bene, sì. E quindi tu sai che lui è un grande fan di... Di Michele Bravi, io sono molto contenta di averlo qui a Radio Tube, Michele, che bello. Ciao, grazie dell'ospitalità. No, che bello che sei venuto a trovarci. Allora, io e Michele ci siamo incontrati a Sanremo, tipo, l'ho intervistato la mattina, non so, alle 8 del mattino. Io ero... Ti ho tirato giù dal letto. Io ero proprio distrutta. Lui un fiorellino, appunto, c'ha 20 anni, e mi ha regalato... Adesso, oh, finalmente scopro cos'è questa cosa. Questo cuore che è fatto. Con la carta e un origami, sì. Perché lui già a Sanremo ci ha fatto entrare nel mood del suo album che si chiama Anime di carta. Eccolo! C'era che la spiega, la spiega. Brava. Origami. E tu l'hai anche tenuto. Certo che l'ho tenuto, scusa, l'ho conservato gelosamente. Il soprammobile è bellissimo. No, io ho praticamente invaso tutta la Riviera con gli origami per tutta la settimana. Poi, insomma, io mi presentavo sul palco ogni sera con un origami diverso. Mi piaceva in qualche modo portarmi dietro questo concetto di carta, insomma, anche a Sanremo. Che poi, siccome ho studiato, so che nella prima settimana è andato subito primo l'album. È giusto? Sì, hai capito? Mica storie. Fa impressione, no? Ma quello non è merito mio, nel senso come che... Come non poi... è merito no, tu? No, io non c'entro niente, io faccio in un disco, senso? Poi ti affidi alle mani del pubblico, insomma, io sono contento che questo disco stia piacendo molto e che venga vissuto, insomma, con lo stesso rispetto con cui io l'ho concepito. E quindi no, sono molto contento, però non è merito mio. Ma quello è il primo è tutto... artista che no, dice... No, vabbè, ma quello è merito, insomma, di chi poi lo approfondisce, lo ascolta, insomma, su quello alzo le mani e dico bravi da casa. Allora, è un album densissimo, un album nel quale hai davvero tirato fuori, al di là del cuoricino di carta, hai tirato fuori un sacco di cuore e un sacco di maturità nonostante appunto la tua giovane età. Io ti avevo preso in giro all'epoca dicendo, ma di quante pagine può essere fatto il diario degli errori di un ragazzo della tua età? Guarda, il punto secondo me è uno, no? Quando parli di diario degli errori parli del diario della vita, no? Questa falsa idea che gli errori si fanno soltanto con la consapevolezza, no? Gli errori li fai per raggiungere la consapevolezza, quindi obiettivamente il diario degli errori è molto più caldo a 20 anni, perché è il periodo in cui tu davvero inizi a capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Poi cambiano col tempo, insomma, l'entità degli errori. Io se cantassi questo pezzo tra 10 anni non lo canterei come lo canto oggi, però mi piaceva l'idea di poter raccontare, no, in qualche modo, anche rispetto a quella che è la mia storia, al di là della storia umana, ma anche proprio professionale, no? Raccontare che alla fine erano giuste, no, tutte quelle scelte sbagliate, quindi era un po' questa la provocazione del diario degli errori. Sai che a un certo punto mi ha detto, poi un giorno quando avrò 30 anni... Sì, come dire. Sarà detto, non ti preoccupare, molto peggio. E quando ne avrai 40 pure peggio. Senti, gli errori, gli sbagli ritornano nei testi delle canzoni. Perché ti sei fatto un sacco di domande? Cioè sono brani un po' che hai scritto tu, un po' che hai scritto con altri, però raccontando la tua esperienza, quello che stavi vivendo. Ma guarda, io nel disco, no, l'idea iniziale era, a questo punto, no, io sono a un punto, no, del mio percorso, corso discografico, per cui devo davvero tirare fuori un materiale che sia questo è Michele Bravi, no? E quindi dovevo raccontare una storia che fosse la mia, no? Tolto tutti i filtri, anche banalmente la parentesi del disco in inglese che c'era stata, adesso torno a cantare nella lingua in cui penso, in cui vivo, e obiettivamente inizio a raccontare di me stesso, dovendo essere io il primo a scrivere le cose, no? E c'è stato, insomma, tutto un percorso. Il disco non è partito così, nel senso che l'idea iniziale era completamente diversa, no? Poi le cose piano piano maturano, tu vivi certe cose che ti spingono, no? a scrivere in un modo piuttosto che in un altro. Io sono arrivato a un punto, no? E qua parlo tipo a questo punto dell'anno scorso, dove ho buttato tutto il lavoro di 2 anni, ho detto no ragazzi, adesso io devo parlare di questa cosa, e da lì ho iniziato a scrivere del fatto che mi ero lasciato, che ero solo, single, insomma c'è tutto questo questo percorso, no, della relazione a due, che poi va a finire malissimo, vi faccio questo spoiler, e, e poi per questo, no, poi uno inizia a parlare di scelte sbagliate, di cose, capisci che appunto, no, in un qualche modo gli errori non esistono, appunto esistono scelte giuste e scelte sbagliate, no? E questa speranza che, di rimanere fuori dal diario degli errori, non è che una preghiera a se stessi alla fine. E c'era un po', insomma, tutto questo percorso di ricerca poi per ritrovare queste famose chiavi di casa che erano andate perdute. Le hai trovate? Le ho trovate, no, non le ho trovate. C'ho scritto, no, forse la cosa divertente è quella, che non si trovano, si cercano. Ma guarda, io spero di trovarle, nel senso, sai, la cosa, la provocazione anche che c'è dietro, no, ad Anime di Carta è proprio questo, no? L'anima di carta, tu diventi un'anima di carta quando inizi a vivere la vita con un'altra persona, no? Ma questo è in amicizia, in amore, perché prendi la forma dell'altra, sì, persona, e quindi allora o diventi un origami bellissimo e là le cose sono stupende, oppure inizi ad accartocciarti, a tagliarti, a rovinarti, a rendere vera la fragilità di quel materiale, no? E la speranza è proprio trovare, sai, quando metti un foglio in controluce, tu leggi quello che c'è scritto al di là del foglio. Ecco, trovare quella luce, quella chiave di casa lì, significa aver trovato la tua anima di carta. Io la sto cercando. Senti, se non ho capito male, preparandomi, perché mi sono preparato, tu per la tua giovane età hai fatto un tragitto un po' particolare attraverso la notorietà. Cioè, prima la grande notorietà con la televisione, poi la rete, che è un po' il contrario di quello che accade ai ragazzi della tua età, no a Sanremo. Già uno, tu hai detto un no a Sanremo. Che, già uno che dice un no, come se la tira. No, no, no, vuol dire che ci hai riflettuto parecchio. E poi di nuovo la grande notorietà di Sanremo. Come hai vissuto questa cosa? Ma guarda, io in realtà molto bene, perché poi uno, no, crea delle false aspettative in generale su quello che è l'idea del percorso di un giovane. E il punto è questo: io ho vinto il talent a 18 anni, e obiettivamente lì hai un tipo di esposizione molto ampio, perché ottieni la tua utenza, insomma, è un nome che inizia a essere un po' sulla bocca di più persone rispetto a quello che tu ti saresti immaginato. Poi da lì venne fuori la proposta di Sanremo, soltanto che hai due mesi per prepararti, no? E io in quel momento mi sono detto, io ho 18 anni, fino all'altro giorno manco mi potevo immaginare di poter provare a rendere questa passione una professione. Adesso vado su quel palco a raccontare che cosa? Non lo sapevo, e quindi ho detto, ragazzi, io non me la sento di... intanto perché Sanremo è un palco che va rispettato per tutto quello che c'è stato e per quello che rappresenta, ed essendo un'opportunità così grande, ho detto, io ho bisogno di tempo per potermela godere quella roba, perché sennò vai lì... a me le espressioni, no, batti il ferro finché è caldo, mi terrorizzano, perché stiamo parlando sempre comunque della creatività delle persone e delle persone, quindi l'idea di fare questa montagna russa sulla mia vita, ho detto, forse è meglio di no. E insomma da lì ho iniziato a trovare il mio spazio giusto per vivermele le cose, no? Perché poi adesso, senza parlare di gavetta, perché poi sembra di mancare di rispetto a chi la gavetta l'ha fatta davvero, però iniziare a fare un lavoro su te stesso, su un certo tipo di ricerca, imparare a fare questa professione, mettila così. E insomma, io in 3 anni ho trovato, non ti dico che ho trovato la soluzione finale perché sarebbe presuntuoso, però ho trovato la spavalderia per poter raccontare i 20 anni adesso, no? E nel frattempo la rete, YouTube, l'esperienza, che cosa ti ha dato? Ma per me noi parliamo spesso, guarda, di rete in questa Per me è stato fondamentale, perché ho capito che per avere una buona percezione di te tu devi avere partecipazione intorno, no? Un po' come quando, non so, ti prepari per la serata, ti guardi allo specchio, ti senti fighissimo, poi esci di casa, incontri l'amico o l'amica di turno e ti dici, ma come ti sei vestito? Cioè, ti serve avere, no, un termine di confronto. Come io ti ho detto, ma quanto sei alto? Esatto, no? Cioè, ti serve, oltre allo specchio, oltre all'autoriferirsi, serve di creare un dialogo. Io con la rete ho imparato ad ascoltare chi poi mi avrebbe ascoltato, e questa cosa, oltre le mie aspettative, ha inciso in maniera importante, no, su tutto quello che poteva essere il processo creativo, produttivo, no? Quindi insomma sono contento che poi il risultato del lavoro sia stato apprezzato, no? Perché in qualche modo mi sentivo anche di essere un rappresentante di una squadra che ti aveva dato fiducia. Dall'altra parte il vetro c'è l'ufficio stampa, noi adesso le chiediamo di tapparsi un attimo le orecchie, tu non ascoltare quello che sto per chiedere, Michele. Quando abbiamo saputo che tu saresti andato a Sanremo, abbiamo tutti, da parte della stampa, fatto molto il tifo per te, perché tu sei stato un po' un Davide contro il Golia della discografia a un certo punto. Cioè, a un certo punto sembrava che la tua carriera, nonostante tu fossi giovanissimo, fosse già data per spacciata. E invece tu, tutto d'un pezzo, non è una cosa da poco per un ragazzo della tua età. Cioè, non sarebbe una cosa da poco per uno con 10 anni di più. tu sei stato veramente temerario. Ma più che, cioè, là non sono scelte coraggiose, io proprio perché non credo in questa idea che, allora, hai un attimo di esposizione, allora significa che farai un percorso. Cioè, le cose vanno assecondate, no? Poi quando lavori con la creatività ci vuole tanto adesso, senza tirarsela troppo, senza fare i poeti della situazione, però insomma le cose vanno ascoltate, no? La creatività non la puoi domare e quindi ci vuole tempo per fare tutto. Io in quel momento non ero pronto ad un percorso così tanto fulmineo, e sono una persona probabilmente che si deve prendere i suoi tempi, no? Ma perché, ripeto, io non credo che adesso, per dire, saremmo andato molto bene, da oggi si ricomincia da capo. Favoloso Michele, noi ci ritroviamo tra pochissimo perché abbiamo una breve pausa, poi saremo ancora insieme con Radio Tube. Traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Radio Tube. E questo è sempre Radio Tube e questo è l'ultimo blocco della nostra trasmissione, sempre Anime di Carta, il CD di Michele Bravi che è con noi. Beh, ancora un pezzettino perché io voglio parlare ancora un sacco di questo disco. Pull the shades that the light in, there's a shock when the world ends, it's a place where you need me. And you come and you glow and then, it's all silver and gold again, I'm alive again. Live again. Don't just feel it in my heart, it's fire in my bones, it's fire in my bones. Parliamo un po' del disco. Sì. Stavo aprendo quello fisico perché non l'ho ancora visto il disco. Stai aprendo il mio, però, scusami, questo fatto qua non lo Questo è il momento più brutto, perché togliere la plastica del disco è praticamente un'arte, cioè ci vuole una laurea per saper togliere la plastica. Bisogna le unghie. Ma no, perché non c'è più il leader. No, cos'è il leader? Il leader era quella Renzi, linguetta, dice, che uno girava politica. E sentiva. Ah, non c'è più, vedi? Non fanno più col leader. Hanno aumentato la difficoltà. Sai perché volevo aprire il disco fisico? Perché volevo vedere i ringraziamenti. Sono due pagine infinite. Due pagine di ringraziamenti. Perché ha detto che tre c'erano anni tante, di c'erano racconti, tante persone, esatto, da ringraziare in tre anni. Ma è incredibile, davvero, due pagine di ringraziamenti. Come hai fatto a sceglierli? No, ma guarda, nel senso, io credo molto. Allora, io sono una persona molto difficile, quindi ho un'idea dei rapporti. In che senso? No, nel senso che se ci stiamo simpatici, bene, se no io non ci metto niente a essere un pochino più colorito nel linguaggio con te. E quindi, nel senso, poi quando vado a lavorare è umbro. Sono umbro. E no, quando poi vado a lavorare con qualcuno, io, allora, sono molto ironico, molto tranquillo, però sul lavoro, cioè, io ho un grosso rispetto di quello che sto facendo, ma probabilmente un po' di superbia, non lo so, però quindi poi ci tengo a trovare le persone giuste che rispettino l'intenzione con cui tu stai vivendo quella cosa. Poi si scherza, però il rispetto è alla base di tutto, quindi vado a scegliermi poi, insomma, le persone che ci scegliamo a vicenda, no? Le persone che hanno un po' lo stesso tipo di pasta e di sensibilità, e quindi poi, insomma, un ringraziamento è più che doveroso. Beh, hai ringraziato anche Trash Italiano, che è una nota web star, e scrivi, aspetta che trovo la riga, grazie a Trash Italiano perché in realtà nessuno lo vuole ammettere, ma il merito è tutto suo. Racconta perché. Io me lo ricordo. Allora, racconto perché. Allora, quest'estate Trash Italiano è un mio amico, Marco, ha fatto questo format web in cui si giocava molto, no, sulla figura di Maria De Filippi, ed era un po' questo percorso Maria Express per arrivare Maria invece, Express. Invece di Pechino Express, Maria Express per arrivare fino agli studi Helios. Sì, la vittoria finale era incontrare Maria, no? E insomma, quando me ne parlò, io mi divertii molto a dire: ma sì, ma certo, ma facciamo, mi diverto, no? E quindi avevamo fatto questa cosa. Poi caso ha voluto che io mi sono ritrovato Maria proprio a Sanremo, e quindi da lì lui mi ha detto: ah, è tutto merito mio, non lo vuoi ammettere, ma è tutto partito da Maria Express. Ma il palco, no? Il palco quando sei salito è un disastro. Allora, guarda, io pensavo di reagire peggio, perché la prima volta che ho visto Sanremo alle prove, no, ovviamente, e io piango per tutto, cioè se tu adesso mi dici grazie io mi metto a piangere, per dire, no? Quindi dico: adesso vado là alle prove, ragazzi, io non so se riesco a cantare, no? Perché poi comunque là c'è un ritmo bello, bello serrato, Michele mi è un lavoro pazzesco, no? Adesso racconto anche un retroscena. Io ero in prima fila al primo posto alle prove, quando toccava lui è arrivato Aldo Vitale, direttore di Sorrisi e Canzoni, e mi ha detto: no, Michele Bravi lo devo vedere in prima fila, e si è alzato e si è messo in prima fila per vederti. Sì, tanto e lui era tranquillo. Tanto aspettavamo, poi non ho pianto alle prove, no. Non ho pianto, poi dopo Sanremo fiumi di lacrime per settimane, però no, insomma è bello, anche perché poi guarda, fa stranissimo, no, però pensare che su quel palco, no, ci ha cantato, certo, almeno tu nell'universo per la prima volta Mia Martini, no? E poi ci sei tu a cantare la tua canzone di La Decadenza della Musica. No. Però insomma, no, fa stranissimo. Però una delle tue esibizioni è stata il momento più divertente del Festival di Sanremo, perché tu sei stato presentato da Francesco Totti. Sono stato presentato da Francesco Totti, c'è stato questo siparietto. Il siparietto, che uno dei suoi autori era Chopin, cioè che sì, è diventato Chopin lì in quel momento. Il diario degli errori. Bellissima. Guarda, in realtà quella è anche un po' una botta di fortuna enorme per me, perché io sono entrato ovviamente molto teso, no? E il fatto che c'è stato, no, questa battuta di Totti, poi si è messo a discutere col mio direttore d'orchestra, perché lui era del Napoli. Insomma, io mi sono proprio preso quel minuto lì sul palco, mi sono guardato gli orchestrali, sono proprio tranquillo, ho detto: ok, adesso si canta. Quindi in realtà al di là poi del fatto proprio divertente, a me è servito veramente tantissimo per tranquillizzarmi, qui devo tutto a Totti. Cosa ti hanno detto i ragazzi che ti seguivano, che ti hanno seguito con tanta ansia su YouTube e che non ti hanno abbandonato mai? Io mi sentivo un po', adesso senza tirarmela troppo, però mi sentivo un po' di rappresentare il web, certo, che si affaccia su un vecchio media, no? Su una manifestazione così grossa come Sanremo, quindi avevo un po' anche questa responsabilità di dire: sei lì a rappresentare una categoria per la prima volta, vediamo che cosa succede. Quindi anche il fatto che ci sia poi stato un grosso gioco di squadra in quell'ottica lì, e che sia emersa, no, la storia di questo web che purtroppo, per fortuna, la seconda di come uno la pensa, ma deve essere accettata, bisogna iniziare a guardare anche con occhio attento, certo, insomma, quella realtà, perché è vero che c'è tanta, adesso userò un francesismo per descrivere, ma c'è tanta merda sul web, è vero, però ci sono anche tanti gioielli, e adesso mi sto dicendo che sono un gioiello da solo, però no, ma diciamo noi. Ma soprattutto, però, insomma, non è solo un gioco, ci sono delle professioni, no, ci sono delle professionalità, delle creatività che si creano, poter si vedere ricreano con consapevolezza anche quella piattaforma, insomma. Io spero in qualche modo di aver dato il là anche per scoprire talenti anche da là. Daniele, da papà di un ragazzino che è fan di Michele, è un bel esempio. La cosa interessante, ragazzi, stavo pensando mentre lui ne parlava. Allora, come tu puoi immaginare, mio figlio ha 9 anni, va pazzo per i rapper. Okay. Però insieme Michele Bravi, quindi è come fosse combattuto, no, tra, perché poi tra l'altro il testo, il tuo testo è chiaramente, cioè sono solare, parole completamente divertente. No, ma sono parole più raffinate, sono anche concetti più raffinati, e quindi competere, diciamo, in una musica che è fatta di parole molto semplici. In quell'ottica lì io sono sempre, rimango molto per quanto io non sono mai partito, no, da un ascolto che è prettamente hip hop, rap, cioè questa è una cosa che ho scoperto col tempo, ma rimango molto affascinato da come i rapper stiano diventando, se vuoi, i nuovi grandi autori che abbiamo in Italia, no? Molte volte adesso ormai è passata questa idea che il rap parla soltanto del pappone, della prostituzione. No, non no, è no, così, no, capito? Dicevo parole, cioè, però dire. capacità nell'essere diretti, no? E io mi sono ascoltato tanto questo nuovo modo di scrivere, ma perché mi accorgevo che, pur non essendo il mio genere, non riuscivo a smettere di ascoltarlo, perché per la prima volta qualcuno mi stava parlando in una maniera in cui io riuscivo a comprenderla, no? Sai, molte volte adesso si è arrivati a un punto in cui nel pop mainstream si nasconde un po' tutto dietro alla giustificazione, beh, ma è una scusa poetica, però le canzoni non parlano più di niente, e invece il rap è pieno di contenuti, e se vuoi anche la cosa del diario degli errori non è poi così ricercata, no? Io ovviamente mi esprimo, ma per come è la mia capacità di espressione, no? Perché ho bisogno di ascoltare una canzone? Perché quella canzone mi racconta una cosa a cui io non sarei mai riuscito a trovare le parole giuste per descriverla, no? E quindi nel momento in cui le canzoni parlano di tutto ma non dicono niente, a me io non ho bisogno di sentirle. Ecco, secondo me, infatti, lei lo sa, a questo Sanremo c'erano un po' di canzoni che erano costruite su tante frasi che hai già sentito o risentito, ma che poi alla fine non raccontavano grande storia. Però, però Michele ti era piaciuto. Esatto. Era piaciuto niente, non gli era piaciuto niente, gli era piaciuto solo Michele. Io in realtà sono lo dite a tutti. No, non è vero, posso dire che mi era piaciuto, l'ho detto tante volte. No, guarda. Io sono pazza di questo ragazzo, sono pazza di Michele Bravi, posso dirlo? Certo, siamo qua apposta e alla grande anche. Grazie per essere stato con noi, Michele, sono veramente contenta di averti ritrovato e rivisto, e il cuoricino di origami lo conservo ancora. Pensavo me lo regalassi. Niente. Guarda. Non ti può regalare il suo cuore. Cosa faccio, Michele? Glielo regalo? Guarda, lascio a voi la... Vabbè, ve lo diremo alla prossima puntata, grazie. Ciao. Michele. Grazie mille, grazie davvero. Daniele, che bella puntata! Peccato sia finita. Ma quanta bella gente finita. C'è stata insieme a noi. Sì, è stata una puntata molto bella. Abbiamo parlato molto creativa, di un sacco di temi. Tutta creatività, sì, era un sacco tutta di temi interessanti, un sacco di persone interessanti. Ci rivediamo, cioè ci riascoltiamo. Ci rimostriamo alla radio. Sabato il villaggio sabato. Alle 15, Radio Tube alle 17. Per me, ciao. Anche per me, ciao. Al prossimo sabato.